La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. L'articolo 104 ribadisce in maniera ferma l'autonomia della magistratura. È molto interessante il termine che viene scelto dal primo comma. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Attenzione, la magistratura non è un potere secondo i costituenti. Sappiamo che la base, la struttura dell'architettura costituzionale si fonda sull'idea della divisione dei poteri, sull'idea di Locke, l'idea di Montesquieu, cioè per governare in maniera bilanciata bisogna dividere il potere fra più organi e quindi potere legislativo, potere giudiziario, potere esecutivo. Ma la magistratura non viene definita un potere, proprio perché il Costituente vuole chiaramente ribadire che la magistratura applica la legge. Ecco allora che la magistratura è un ordine quindi un sistema, ma un ordine autonomo e indipendente, che deve agire in piena autonomia ed indipendenza, soprattutto dal governo, dal potere esecutivo. Per questa ragione l'organizzazione della magistratura ha al suo vertice non la burocrazia ministeriale, ma ha al suo vertice un organo nuovo, il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM normalmente. Che cos'è il CSM? Il CSM è quell'organo che gestisce l'autonomia della magistratura. Ne fanno parte il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione e poi membri ordinari che sono per 2/3 magistrati e per il restante terzo laici, cioè professori ordinari e avvocati che vengono eletti dal Parlamento in seduta comune. Quindi, per garantire in maniera ancora più autonoma la magistratura, al vertice l'organizzazione viene gestita da un organo di autogoverno, cioè da un organo eletto per gran parte dagli stessi magistrati, composto per gran parte dagli stessi magistrati 2/3, che quindi organizzerà in maniera autonoma la funzione della giustizia. A capo del Consiglio Superiore della Magistratura viene posto il Presidente della Repubblica, proprio perché il Presidente della Repubblica, essendo un potere neutro, tocca tutti i poteri fondamentali e quindi guida il Consiglio Superiore e guida la magistratura. Tuttavia, la presenza del Presidente della Repubblica nel CSM è una figura soprattutto onoraria, nel senso che il lavoro ordinario del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, viene presieduto dal Vicepresidente, che è un membro laico, cioè un membro non magistrato eletto dal Parlamento in seduta comune fra professori e avvocati.